Piccola precisazione che non sta scritta da nessuna parte, ma vedremo se scrive nell'ordinanza domani, perché voi sapete che chi ha gli 8 anni, diritto al rientro perdente posto, che obbligo ha? Devo dichiarare la scuola da cui sono stato a pagina 3 e la devo mettere come preferenza a pagina 4. Domanda, ma se io voglio cambiare provincia? Bene, chi è delle superiori ha fatto consulenza e addestrato su questo, perché da sempre alle superiori come funzionava? Mentre alle medie facevo 2 domande, quella provinciale dovevo rispettare la regola, quindi in quella provinciale io ero obbligato, per mantenere per 8 anni continuità diritto al rientro, a mettere la mia ex scuola come prima. Domanda provinciale. Se poi facevo l'interprovinciale la potevo fare sapendo che l'interprovinciale prevale, a quel punto me ne vado e perdo tutto, però me ne vado. Adesso come faccio con un'unica domanda? Come si faceva nelle superiori fino all'anno scorso? Ovvero, se io voglio cambiare provincia come mio interesse prioritario, le prime preferenze che esprimo tra le 15 devono essere dell'altra provincia. Perché questo è l'unico modo per dire che io ho interesse prevalente per altre province. Dopodiché metto anche la mia provincia perché voglio rientrare, perché non voglio perdere la continuità. Qual è la regola? Che la prima preferenza della mia provincia deve essere la mia ex scuola. Vi convince come ragionamento? È anche logico, no? Ok? Questo è poi. Le cattedre orario hanno meno valore perché? Perché si è ristretto il cerchio dentro lo stesso ambito, quindi speriamo che siano più comode. Ho detto stamattina, lo ripeto, che l'opzione rimane, ma vale solo per la preferenza di scuola. Ovviamente non ha alcun senso questa opzione per l'ambito. Se io tengo ambito provincia, questa casella non mi garantisce nulla, perché poi dipende da come va la seconda partita, insomma, quella dell'incarico triennale. Il personale educativo, la domanda è cartacea: posso indicare la mia provincia e fino a un massimo di 9 province ulteriori, oltre la mia, quindi in totale 10 domande posso fare. Ok? La mia provincia è fino a un massimo di 9, è cartacea. La invio a tutti i provveditorati, devo esprimere un ordine di preferenza se indico 9 province, cos'è che preferisco? Non mi pare ci siano differenze. Per il personale ATA sostanzialmente non cambia nulla, le domande sono due. Anche qui abbiamo discusso se mettere più province, ma abbiamo detto: ma degli ATA, oltre alla seconda provincia, chi è che ci interessa mettere 15 province? Ci è sembrato un po' abnorme, senza contare il fatto che poi era un po' complicato modificare, visto che questi chiedono le scuole, il personale ATA non è cambiato nulla, ci sono le 3 fasi, eccetera. Insomma, conclusione, non abbiamo modificato nulla. Quindi le uniche modifiche sono quelle comuni, le precedenze, la valutazione del servizio pre-ruolo solo ai fini della mobilità volontaria, anche per gli ATA. Sistema delle precedenze ve le ricordo velocemente, se poi avete qualche domanda alzate la mano e me lo dite. La prima è non vedente modializzato, perché è la legge che gli dà la precedenza assoluta su tutto. Poi c'è la precedenza introdotta dal contratto e non da leggi, cioè il diritto a rientrare negli 8 anni successivi, a condizione che tutti gli anni si sia chiesto di rientrare, ed è la preferenza numero punto 2. Apro e chiudo una parentesi, poi c'è l'allegato con l'ordine delle operazioni. Se lo osservate con un po' di attenzione, vedrete che ci sono una serie di operazioni pre-mobilità, diciamo, gestita dal programma del Ministero. Ci sono alcuni, il rientro degli fuori ruolo dall'estero, le operazioni dei licei musicali e altre sono fatte, diciamo, prima della procedura informatica. Ci trovate l'elenco e poi trovate le 2 fasi provinciale e interprovinciale con l'elenco delle ordini delle operazioni, e quindi tutte queste precedenze sono elencate lì dentro. La precedenza punto 3, che è sempre il punto 3 come in passato, c'è 3 sottospecie, c'è la precedenza legge 104 personale, l'articolo 21, quello che deve avere almeno 2/3 di grado di invalidità, le gravi patologie, ovviamente nel comune dove ci sono i centri di assistenza o bisogno di risiedere, e la precedenza per l'assistenza. Quella per l'assistenza, l'ho già detto stamattina, ricordo che sono 3 i familiari, coniuge, figli. In ordine di priorità ai figli che abbiamo detto che vengono prima, poi ci sono Perché comma 6? articolo 33,6. Perché comma 3? Sì, poi c'è comma 5,6. Ah, scusa, scusate, comma 3 dovrebbe essere. No, quella è la certificazione. Questo è il diritto di precedenza. Il comma 6 è il lavoratore in stato di gravità. Il 5 e 7 invece è l'assistenza, che tra l'altro viene dopo, quindi non la devo dire qui. Qui c'è un'ambiguità storica, eh? Domanda: ma perché chi sta grave deve venire dopo di chi sta meno grave? L'abbiamo provato a cambiarla, abbiamo sentito l'ufficio legale del ministero, ha detto: ahimè, lo dice la legge, se noi cambiamo rischiamo che qualcuno ce l'ha in pallina. È la legge 104 che dà la precedenza assoluta all'articolo 21 con almeno un terzo di invalidità. L'articolo 33, sono andato a leggere nella 104, c'è scritto agevolazioni e viene dopo, quindi purtroppo è una legge, però è un controsenso, perché stiamo parlando sempre del lavoratore con handicap. Quello che c'ha due terzi viene prima, quello che è in situazione di gravità e bisognoso di assistenza viene dopo, perché questa è una scaletta anche che a parità di precedenza viene chi viene prima e chi viene dopo. Poi abbiamo detto che l'assistenza, i commi 5 e 7, l'abbiamo anticipata rispetto al diritto al rientro nel comune, e questa riguarda i figli che vengono prima di tutto già dall'anno scorso, perché abbiamo dato la precedenza all'assistenza ai figli. Poi viene coniuge e genitore in provincia, solo il coniuge nell'interprovinciale. La dico diversamente, il figlio vale sempre, il coniuge vale sempre, il genitore solo nella mobilità provinciale. Nell'interprovinciale l'abbiamo spostata nella mobilità annuale, ok? Poi c'è il diritto al rientro nel comune. Qui come funziona? Siccome la fase comunale non c'è, se io metto altre preferenze del comune ce l'ho la precedenza, se non le metto non ce l'ho. Quindi io devo innanzitutto chiedere il rientro a scuola, perché la precedenza del comune è subordinata all'altra, non è autonoma come precedenza. Quindi io devo chiedere innanzitutto di entrare nella scuola mia. Poi se ci metto le altre quattro scuole, me le gioco nel comune, allora lì c'ho la precedenza, sul resto no. Ok? E viene dopo l'assistenza. Poi ci sono quelle previste da altre leggi, il coniuge del militare, il personale che ricopre cariche pubbliche. Qui attenzione, dite sempre: guarda che tu, se ottieni trasferimento in questa precedenza e poi finisce il mandato amministrativo, politico, eccetera, torni da dove sei venuto. Conclusione, consigli per gli acquisti, come dice Enrico, consigliateci di fare la domanda annuale e non quella definitiva, perché tu fai quella definitiva senza precedenza, se lo tieni te la tieni a vita. Con la mobilità annuale utilizzi questo tipo di precedenza, perché se invece fai il contrario rischi che dopo 7, 8, 10 anni non sei più rieletto, non fai più il consigliere comunale o l'assessore, ritorni da dove sei venuto. L'aspettativa sindacale non c'è nessuno, ma noi eravamo sempre per toglierla da anni, altri no, lasciamola così. Come si applicano le precedenze? Già l'ho detto, vale all'interno della provincia quella del punto 2, il diritto, devo chiedere la scuola, la devo mettere come prima diciamo all'interno delle preferenze della provincia, ok? Il concetto che ho detto un attimo fa. Il punto 3 che devo fare vale all'interno e per la provincia del comune di residenza o cura, a condizione che la prima preferenza sia una scuola del comune o ovviamente più scuole del comune, oppure l'ambito che contiene il comune, oppure gli ambiti subcomunali se si tratta di Napoli, Bari, Roma, Milano, questi che hanno diciamo ambiti territoriali subcomunali. L'articolo 33.4 è lo stesso concetto, mi pare che se non ci sono, vale sempre la solita regola che se nel comune non ci sono sedi esprimibili allora posso indicare la scuola del comune vicinore. Vale la precedenza nella scuola sede di organico se nel comune mio non c'è la scuola sede di organico ma c'è un plesso. Devo ripetere? Cioè io sono una scuola che ha 5-6 plessi in comuni diversi, io abito in un comune dove non c'è la scuola dove io divento titolare perché unificano gli organi, ma c'è solo un plesso. Siccome mi interessa lavorare in quel plesso perché sta a casa mia, come faccio? Esercito i diritti di precedenza, diritto al rientro, eccetera, eccetera, nella sede anche se sta in un comune diverso. Ok? Perché io sono costretto, devo indicare quella. Va bene? Non mi pare logico anche dal punto di vista razionale, diciamo. Questo mi pare da aver già detto, andiamo veloce. Leggo insieme a voi, esclusione dalle graduatorie interne. Ecco, abbiamo detto che primo apro e chiudo la parentesi, io queste slide le mando a tutti i segretari provinciali e regionali, va bene, delle tutte le regioni, poi chiedete a loro e ve le mandano a casa. Non serve che c'è la registrazione. Le graduatorie interne, c'è sempre la regoletta che si valuta tutto ciò che si matura entro le scadenze delle domande, data che ancora non sappiamo, e si deve fare obbligatoriamente entro i 15 giorni successivi. Morale della favola, siccome molte scuole stanno già facendo senza neanche conoscere il contratto, che potrebbe cambiare, non è che prendo quel dirigente e gli do 4 ceffoni, io gli sto dicendo forse stai perdendo tempo, fai qualcosa di più utile in questo momento. Però l'importante è fargli capire che questa non può essere definitiva. Va bene portarsi avanti nelle cose che bisogna fare, sapendo che però poi la dovrai rivedere se qualcuno te la integra o ti chiede delle integrazioni entro i termini previsti dal contratto. Per beneficiare dell'articolo 33 come si beneficia? A condizione che la scuola sia nella stessa provincia dell'assistito. Se la scuola si trova in altro comune rispetto a quello dell'assistito, scusate, questa è l'esclusione, stavo pensando adesso al diritto di precedenza. Il comma 2 dell'articolo 13 stabilisce quando è che si è esclusi dalla graduatoria. Primo chiarimento, esclusi dalla graduatoria significa che si sta fuori dalla graduatoria, o meglio, si sta dentro ma non ai fini della mobilità. In genere le graduatorie le scuole le fanno e poi le usano per tante cose, quindi è normale che chi ha la 104 stia in graduatoria, ma è escluso ai fini dell'individuazione perdente di posto. Ci sono delle condizioni però, devo essere titolare, la scuola deve stare nella stessa provincia dove è l'assistito. Se io sono titolare in un'altra provincia anche limitrofa, non ho diritto all'esclusione. Non è una novità, è roba vecchia. Altro problema, la scuola si trova in un comune diverso da dove sta l'assistito. Allora, o siamo nel caso di prima, cioè che c'è un plesso e la sede principale sta nel comune vicino, cioè l'assistito sta nel comune A. Nel comune A c'è un plesso ma la sede centrale sta nel comune B. Vale uguale l'esclusione, perché? Perché io vorrei rimanere a lavorare lì e per rimanere a lavorare lì devo rimanere titolare nella scuola che gestisce l'organico di quel plesso, ok? Se invece non è così, perché nel comune dove c'è l'assistenza c'è una scuola che io posso chiedere, allora l'esclusione ce l'ho in una, se sono titolare in una scuola di un altro comune, a condizione che dimostro la buona volontà di voler andare a assistere, ovvero sono escluso, mi si evita di perdere posto a condizione che io abbia chiesto volontariamente di andare nel comune dove risiede l'assistito. Perché altrimenti vuol dire che sto facendo i giochetti, cioè che non mi interessa affatto assistere, tiro fuori questa condizione quando mi fa comodo, cioè quando voglio evitare di perdere posto. Questa è una roba che abbiamo precisato 5-6 anni fa, se non ricordo male. Il titolare che ricopre cariche pubbliche è escluso anche lui, a condizione che stia titolare nella stessa provincia in cui esercita il mandato. Perché un consigliere comunale di Napoli che ha avuto il trasferimento l'anno scorso ad Ancona, e non è che è escluso dalla graduatoria per individuazione perdente di posto di Ancona se esercita a Napoli, ok? Quindi deve esercitare nella stessa provincia dove è titolare e ovviamente durante l'esercizio del mandato. Poi qui c'è la regola solida che sta nel contratto, che dice che tutti questi diritti, sia di precedenza che sia di esclusione, devono permanere fino a 10 giorni prima della chiusura dell'area. Cioè al momento in cui faccio la domanda, nel momento in cui il preside fa la graduatoria, io ho il requisito della 104. Ma se poi questo viene meno, se sto nei 10 giorni, io fino a 10 giorni prima della chiusura dell'area, sono obbligato a comunicare alla scuola e il preside rivede il mio status. Ovviamente se succede il giorno dopo che chiude l'area, per quell'anno non posso fare più nulla, perché ci sono dei tempi tecnici, poi per la macchina va avanti e quindi non si può intervenire più. Io, se siete d'accordo, il dimensionamento lo salderei tutto. Se ci sono dei casi me li scrivete, sia perché è un fenomeno qua e là singolo, raro, secondo perché non è cambiato niente, ovvero il dimensionamento lo dovrebbero aver fatto entro dicembre-gennaio con i vecchi codici, le vecchie scuole, che poi adesso vengono unificate, quindi diciamo le regole di dimensionamento sono quelle dell'anno scorso, diciamo più o meno dal 2001, primo dimensionamento fatto ai tempi di Berlinguer ministro, dopo l'introduzione dell'autonomia scolastica, le regole grosso modo sono rimaste sempre quelle, no? Con l'opzione in alcuni casi, in altri si fa la graduatoria e opzione dopo, eccetera. Quindi lo salterei, ripeto, rimaniamo fra di noi, che se c'è un caso e c'è un qualche problema ci scriviamo tramite segretari provinciali per mail e lo chiariamo. Noi purtroppo ne abbiamo tanti. Sui perdenti posto, allora ho detto stamattina che non si fa distinzione tra titolare e incaricato, l'unica distinzione è che è la regola solida dell'ultimo arrivato. Conclusione di questa regola storica, che tutti gli incaricati, siccome stanno al primo anno di incarico, vanno tutti in coda. Quindi in coda ci vanno tutti gli incaricati nella graduatoria interna e quelli trasferiti quest'anno su questa scuola nuova per il primo anno. Questa è una regola che vale per tutti, vale anche per gli ATA. Nella scuola dell'infanzia e primaria si fa la graduatoria distinta per tipologia di posto, quindi posto comune, posto speciale se c'è, sostegno per ciascuna tipologia per le tre, istruzione degli adulti, eccetera, eccetera. Sul sostegno si fa la graduatoria distinta e questo vale anche per la secondaria di primo grado. Ovviamente questo problema non c'è per il secondo grado, perché lì il sostegno è indistinto, è uno, non ci sono le tre tipologie, ma nella scuola infanzia, primaria e primo grado, se c'è meno uno psicofisico e più uno udito vista, si perde posto lo stesso. Faccio finire. Si perde posto perché le graduatorie sono distinte, ok. Poi però nella mia scuola capita che c'è meno uno e più uno, io ho il titolo polivalente. A differenza della lingua inglese, che sapete ha un meccanismo che gestisce il dirigente scolastico, ovvero c'è un posto di inglese in meno, si individua se sono due chi perde posto di inglese, confluisce di qua e va a pettine dentro la graduatoria unica, e quello che ha perso posto di inglese, che è transitato sul posto comune, è sempre lui il perdente posto, solo se è ultimo, ma se non fosse ultimo scalza un altro, perché storicamente non c'è questa distinzione, no? Dal punto di vista anche del reclutamento siamo tutti uguali, c'è solo un titolo per fare un'attività particolare rispetto a quella che fanno tutti quanti gli altri. Nel sostegno potevamo fare la stessa cosa, ricordo storicamente, ma abbiamo preferito di no, ovvero il perdente posto psicofisico che c'ha l'udito in casa sua e c'ha il titolo, non se la vede col preside. Il preside lo dichiara perdente posto, lui deve fare la domanda, mette, e questo è uno dei pochi casi, la sua scuola come prima preferenza se vuole, ed è l'unico caso in cui la preferenza della sua scuola è esprimibile, perché sta chiedendo un'altra tipologia di posto, e ci siamo dimenticati di scriverlo nel contratto, però tranquillizzo tutti, lo abbiamo scritto, lo stiamo scrivendo nell'ordinanza, questo movimento avviene con precedenza, ok? Perché abbiamo fatto tutto questo giro? Potevamo farla gestire al preside? Perché non ci siamo fidati negli anni passati, perché un preside che fa lui l'operazione, se poi non la mette a sistema, ovvero non modifica la titolarità di Mario, titolare psicofisico, lo fa diventare titolare dell'udito, perché qui è meno uno e di qua è più uno, e non lo inserisce a sistema, si fa il patatrac, perché quel posto, se non viene inserito e dato a Mario, succede che è disponibile per la mobilità, quindi se ce ne accorgiamo al termine della mobilità facciamo un bel casino. Allora, per evitare questo, costringiamo le persone a fare la domanda, cioè non si fa, come dire, dentro casa questa operazione di compensazione, ok? In modo tale che risulta a sistema, evitiamo errori nei trasferimenti. Nella graduatoria interna, l'ho già detto, quelli al primo settembre fanno una graduatoria a sé, gli esclusi sono esclusi, ok? Punto. Tutti i perdenti posto sono, se hanno fatto la domanda gli va bene quella, non vogliono fare altro, la lasciano, ma devono decidere se la vogliono condizionare o meno. Sapete qual è la differenza? C'è la casellina che, se la condiziono, vuol dire che io indico partecipo come tutti gli altri con le 15 opzioni possibili. Dopodiché però, se ho detto che la voglio condizionare, quindi barro la casella no, non me ne voglio andare, Nel caso in cui esca un collega, io automaticamente sono riassorbito e quella domanda non viene presa in considerazione. Se invece io, pur perdendo posto, sono interessato, non sono interessato a rimanere lì e me ne voglio andare, ovviamente faccio la domanda libera. Sapendo però poi che se ottengo bene, ma se non ottengo, non c'ho più diritto a rientrare, perché io ho fatto una domanda libera. Quindi il diritto al mantenimento del punteggio della continuità, il diritto a rientrare negli 8 anni, è subordinato all'espressione della volontà di non volersene andare, e la devo fare a scatola chiusa, non dopo che vedo come mi va a secondo degli interessi che ho. Va bene? Secondo me si è andato troppo veloce su questa faccenda delicata, perché la casella 20 è l'incubo ricorrente. Allora, i perdenti, diciamo, c'è una casella che è destinata ai perdenti posto, va bene? Vediamo come fanno il modulo nuovo, non lo so, ma in passato c'era il modulo fatto in un certo modo in 3 gradi di scuola, e in un 4° grado di scuola era diverso, cioè in 3 gradi di scuola c'erano 3 caselle, il punteggio del perdente posto. Poi, il docente perdente posto intende comunque partecipare a domanda volontaria, sì o no? Poi c'è la 3ª casella che diceva: il perdente posto negli ultimi 8 anni chiede di rientrare nella scuola e indica la scuola. Allora, è evidente, ma spesso capitano i dubbi e i lavoratori ce l'hanno a iosa, che la 3ª casella, quella che ti chiede se intendi ritornare, non ti interessa l'anno che perdi posto, ti interessa negli 8 anni successivi. Quando perdo posto, a me mi interessa che cosa? Il punteggio, perché o lo metto io o lo comunica il preside, ma qualcuno lo deve mettere dentro al sistema. Dopodiché interessa sapere se voglio partecipare o no alla domanda libera. Queste sono le 2 caselle che interessano quando sto perdendo posto. E quando sto perdendo posto, non è che devo mettere come prima preferenza la scuola mia. Perché se io dico no, non serve che la metto, anche perché me la annullano poi se la metto, perché è automatico il riassorbimento. Annullano la preferenza. Cioè, se si libera il posto a scuola mia, avendo detto no, che non me ne voglio andare, automaticamente sono riassorbito e la mia domanda è come se venisse stracciata, cioè non va più avanti, non viene più ripresa in considerazione. La 3ª invece interessa gli anni dopo, solo che in un grado di scuola, adesso non mi ricordo esattamente quale, sta tra le precedenze. Perché poi c'è un riquadro dove c'è l'elenco di tutte le precedenze. Una di queste è il punto 2, cioè il diritto a rientrare nella scuola, e viene messo lì. In altri moduli stava dentro la casella del perdente posto, questa 3ª casella. Adesso non mi ricordo quale dei 3 gradi di scuola c'è questa differenza. Fatti interrompere un po'. Attenzione, perché il soprannumerario nell'anno in cui si produce la domanda lo deve dire, lo deve dichiarare, e voi lo dovete sapere che è veramente soprannumerario, perché alcuni che invece sono stati soprannumerati nell'anno 2-3 anni prima vengono in ufficio e dicono: io sono soprannumerario. Chiaritevi bene su questa cosa, e quindi fate attenzione pure alla conseguente dichiarazione che si fa, perché cambia tutto il barramento delle caselle. Colgo l'occasione di questo chiarimento di Enrico per dire che c'è un'altra subordinata possibile, che il trasferito l'anno scorso per perdente posto può essere di nuovo perdente posto quest'anno. E allora qui deve decidere, sapete tutti come funziona? No, cioè, dillo. Deve decidere che cosa? Allora, io sono andato in una scuola, stavo bene, sono andato in una scuola così, vorrei tornare dove stavo bene, ok? Normalmente succede questo. Però sto perdendo posto anche nella scuola dove sto così. A questo punto devo decidere se non voglio peggiorare rispetto a dove sto, e allora che faccio? La posso far condizionata la domanda, che vuol dire che in pratica io sto esprimendo il desiderio di non essere trasferito dalla scuola dove sto adesso, se barro la casella no. Ma se barro la casella no per quest'anno, non posso chiedere di tornare dove stavo, perché il sistema dice: questo deve far pace col cervello se mi chiede le 2 cose, cioè non mi può chiedere che non se ne vuole andare e poi mi chiede anche che se ne vuole andare per tornare. Delle 2 l'una, ok? Allora, nel contratto, questo 4-5 anni fa abbiamo chiarito che il perdente posto l'anno dopo, 2 anni dopo, deve decidere se non gli interessa rimanere lì, che fa? Chiede sempre di tornare e fa la domanda dove mette, chiede di tornare. mette la scuola vecchia al primo posto e poi mette quello che gli pare. Non fa domanda condizionata. Non fa la domanda condizionata, quindi questo deve barrare la casella, sì. Deve mettere il punteggio sempre, perché quello è un atto obbligatorio, se non lo facciamo noi, ripeto, lo fa la scuola d'ufficio. Deve mettere sì sulla casella, perché lui in realtà non vuole rimanere lì, ma vuole tornare dove stava. Se invece non vuole rischiare di peggiorare e vorrebbe, come situazione diciamo intermedia, per quell'anno rimanere lì, la può condizionare e rinvia all'anno dopo la decisione dove tornare, ok? Senza perdere la continuità, però, perché questo che la condiziona, cioè rinuncia a rientrare, la sta condizionando non perché è una libera scelta, ma perché è costretto, in quanto sta perdendo una seconda volta posto. Quindi non viene penalizzato se mette no, per il fatto che non sta chiedendo di ritornare nella scuola dove c'ha magari un sacco di continuità che si porta dietro. Non so se ho reso l'idea. L'anno dopo decide quale delle due preferisce, sapendo che se ritorna sulla prima mantiene tutta la continuità, e però nel frattempo sono passati 2, 3, 4, 5 anni, non so quanto è passato. Oppure chiede di tornare sull'ultima, si riapre l'ottennio, e però perde la continuità della scuola precedente, mantiene solo quella dell'ultima. È chiaro? Però allunga il brodo, cioè gli 8 anni li riparte da zero e li allunga. Si tratta di valutare il pro e il contro di questi due interessi. Comunque la domanda consente di farlo. Nella secondaria sostanzialmente lo stesso, cioè il sostegno, nella scuola media ci sono le tre tipologie, nella scuola secondaria di secondo grado è unico, non c'è distinzione tra titolari di scuola e incarico triennale, gli ultimi entrati il primo settembre vanno in coda. L'altro particolare, ma l'ho detto stamattina, è che comunque il soprannumerario ha diritto ad avere una scuola, sia domanda che d'ufficio, a meno che non sia lui a chiedere un ambito. Cioè il perdente posto fa la domanda volontaria, no? Può mettere 5 scuole, o si ferma fino a 5 e stoppe, oppure se mette 5 scuole, che ne so, e 3 ambiti, magari quelli più comodi rispetto a quelli più scomodi, se ottiene l'ambito, l'ha chiesto lui, va sull'ambito. Se invece mette 5 scuole e lo ottiene, bene. Se mette 5 scuole e non lo ottiene, lui ha diritto ad essere trasferito d'ufficio con la catena di vicinalità a partire da dove ha perso posto in una scuola. Cioè d'ufficio non si va sull'ambito. Il perdente posto va sull'ambito solo se lo chiede lui, perché ha deciso che gli conviene o gli interessa. È chiaro? Potrebbe finire d'ufficio sull'ambito solo se è in esubero. Alla fine di tutte le operazioni non c'è niente, è chiaro che non lo posso mettere in esubero su una scuola. Lo metto sull'ambito e poi sarà assegnato in esubero su una scuola di quell'ambito. Ok? Adeguamento delle classi concorso organico dell'autonomia, credo che abbiamo detto tutto, è automatico, l'organico dell'autonomia è unico. Quando farete la domanda dovrete andare ad individuare il codice e la scuola sede di organico dell'intero istituto. Cioè quello che da anni stiamo facendo per il personale ATA, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, adesso lo dovremo fare anche per la scuola secondaria, che invece aveva codici distinti se la scuola aveva sezioni staccate in comuni diversi. Oppure nel caso degli IS della scuola secondaria, se c'era un istituto comprensivo che aveva 3 ordinamenti diversi, aveva 3 codici diversi con 3 preferenze distinte e 3 titolarità distinte. Adesso avrà un'unica sede di organico. Quindi anche ai fini delle graduatorie interne, in un IIS della scuola secondaria di secondo grado, adesso si fa la graduatoria unica. Se io avevo un professionale e un tecnico, a 0,50 vecchia facevo 2 graduatorie distinte. E perdeva posto magari quella dove cade una classe, ma l'insegnante aveva molti più punti dell'altro indirizzo dove le classi non calavano. E quindi adesso invece si fa la graduatoria unica e quindi perde posto in assoluto sull'intero istituto chi ha meno punti. Mobilità professionale, penso che ci siamo detti tutti, la mobilità si fa per le nuove classi di concorso, valgono tutte le vecchie abilitazioni e tutti i vecchi titoli di studio, quindi per esempio per gli ITP vale il vecchio titolo di studio, cioè tutte le vecchie abilitazioni e tutti i vecchi titoli di studio sono utili ai fini della mobilità professionale. Ovviamente il DPR di riferimento è il DPR 19 del 2016. Siamo in attesa di un DM che dovrebbe aggiustare qualcosa. Io le classi di concorso non le seguite, quindi le maneggio poco, però so che c'è qualche chiarimento in attesa da fare, ma il decreto ministeriale non è ancora arrivato. Ma tanto voi non è che dovete fare granché, insomma, cioè ci pensa l'amministrazione a ridefinire la vostra titolarità. E l'unica accortezza è che chi fa la mobilità professionale dovrà indicare i codici delle classi di concorso nuove dove sono andate a confluire le vecchie. Passaggio di ruolo prevale su tutto. Se chiedo il passaggio di ruolo al secondo grado e ho tre abilitazioni per tre classi di concorso diverse, posso chiederle tutte e tre. In questo caso, perché è un unico ruolo, i ruoli sono quattro, no? Infanzia, primaria, primo grado e secondo grado. Quindi nel ruolo del secondo grado, quindi è un solo ruolo, perché questo è un obbligo, uno solo, non posso chiedere medie superiori perché mi si annulla tutto. Se ho più titoli posso chiedere anche per cattedre diverse. In quel caso nella domanda c'è la casellina che te le fa mettere, ti fa esprimere l'ordine di gradimento delle tre. Ma il passaggio di ruolo prevale sia sul trasferimento che sul passaggio di cattedra. Invece il passaggio di cattedra, se ne chiedo più di uno di passaggio di cattedra, indico la preferenza tra i due o più. Se chiedo trasferimento e passaggio di cattedra, sceglie il docente a quale dei due dare la precedenza. Ok? Dopodiché il modulo è identico, le domande sono, le preferenze sono identiche. Ho 15 caselle e posso indicare fino a 5 scuole, ambiti e province. Quindi uno che ha il titolo e dal nord deve andare al sud, le prova tutte, insomma, e mette... Sì. Nell'ambito del 10% dei passaggi ruoli sì. Cattedra, c'è una precedenza o una proporzione? C'è un ordine delle operazioni. Sì. Passaggio di cattedra precede il passaggio di ruolo, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo in provincia vengono prima, quelli da fuori provincia si fanno sui resti. La dico diversamente. Abbiamo detto stamattina che prima si fanno tutti i trasferimenti in provincia, compreso il trasferimento dell'esubero. Poi si tira una riga e si va a vedere cosa rimane. Questo è il momento in cui si calcolano le aliquote, quindi alla fine di tutti i trasferimenti provincia per provincia. A questo punto cosa si fa? Cioè si calcolano le aliquote e viene fuori il 30% per i trasferimenti dell'interprovinciale e il 10% per la mobilità professionale. Qual è la prima operazione che si fa? Passaggio di cattedra provinciale sul 10%, poi il passaggio di ruolo provinciale. Perché si fa prima? Perché chi sta in provincia ha diritto a scegliere la qualità della sede, non la quantità dei posti, perché la quantità è garantita dalle percentuali. Cioè il passaggio di cattedra non va a togliere posti per il trasferimento da fuori provincia, perché al trasferimento abbiamo messo il 30%, il passaggio è il 10%. Quindi dentro la quota del 10 si fa prima in provincia perché? Perché va a scegliere la scuola. Prima la cattedra e poi il... Prima il passaggio di cattedra e poi il passaggio di ruolo. Cioè prima quella orizzontale e poi quella verticale. Anche perché l'orizzontale è contestuale, la verticale non è detto. Cioè l'insegnante della primaria che fa il passaggio di ruolo alle superiori partecipa non alla fase della primaria ma alle superiori. Questo cambia poco. Per esempio alle medie potrebbe cambiare perché... Il passaggio di cattedra, se è contestuale, occupa un posto ma me ne libera un altro, che magari potrebbe interessare un trasferimento da fuori provincia. Ma comunque la ragione storica non è questa, ma è il diritto di chi sta già in provincia non ad avere la mobilità prima di altri, se ha meno punti, ma a scegliere la scuola prima di altri. Non so se è chiara la differenza. Io parlavo solo sui due passaggi. E cattedra nell'ambito del 10%. Cattedra viene prima del cattedra, quindi può esaurire tutto il 10% la cattedra sì. Senza esserci nessun sì. Passaggio. Come anche la mobilità provinciale può esaurire tutto e l'interprovinciale non ci rimane niente. Perché l'interprovinciale è l'ultima delle operazioni che si fa. A meno che non si liberano posti perché abbiamo detto che il 40% che è di proprietà della mobilità, diciamo. Rispetto alla disponibilità complessiva rimane in dotazione la mobilità e la mobilità siccome può anche generare posti nella singola provincia o li può ridurre o meno Ridurre no, può azzerare quelli disponibili, ma addirittura me ne potrebbe liberare di più. Cioè in una provincia, ai fini della mobilità professionale, magari in partenza sono zero posti, alla fine osservo che ci sono stati tre passaggi. Come mai ci sono stati tre passaggi? Perché magari ci sono stati tre trasferimenti in uscita e nessuno ha chiesto di entrare in quella provincia. Immagino che in qualche provincia del nord questo possa accadere, è un po' più improbabile al sud, perché siccome i trasferimenti tendono a coprire, è chiaro che vanno a saturare, non a liberare posti rispetto all'aliquota diciamo di partenza. Oh, il personale ADA, non, qui che dire, non ci sono differenze. Ricordo che tutti quelli che hanno perso la titolarità perché stanno al quarto anno di incarico, diciamo di supplenza, di aspettativa, no, aspettativa improprio, diciamo che hanno sospeso il ruolo per un anno perché hanno accettato una supplenza in un profilo diverso, devono far domanda per riacquisire la sede. La stessa cosa vale anche per i docenti, eh? Qui in Italia succede di tutto. A me risulta che ci sia qualcuno che sono 6-7 anni che fa sto giochetto e non ha mai perso la titolarità. Non l'ha persa semplicemente perché il preside non ha comunicato che quello che non ha fatto quello che doveva fare, perché non è che l'ufficio lo fa automaticamente. Cioè, il contratto dice che dopo 3 anni, quindi quando lo accetto per la quarta volta, io perdo la mia sede di titolarità, che era all'origine storicamente un disincentivo ad abusare di questa norma, perché ovviamente è una norma che non piace ai precari, no? Cioè che toglie posti più alti, di qualità migliore ai precari, libera sotto ma copre sopra in genere, perché tutte queste operazioni sono quasi sempre in salita. Quindi chi ha perso il posto deve partecipare e fare la domanda, altrimenti ce l'ha d'ufficio. Trattamento dei perdenti posto, mi pare tutto chiaro? Sì. C'è una domanda? Sì, dimmi. Per quanto riguarda sempre l'articolo 59, sì. E indipendentemente dalla tipologia di supplenza, se ha preso una cosa o 35. Vale da dove parto? Io sono un collaboratore scolastico. Per 4 volte ho accettato di fare il supplente annuale come amministrativo, perdo la titolarità. Sto in graduatoria di supplenza come docente, perdo la titolarità. Sì, questa, certo, questa è un'operazione possibile all'interno del comparto scuola, non si può fare con un'altra amministrazione. Sappiamo che per andare a fare un altro lavoro presso altra amministrazione l'articolo da utilizzare è un altro, l'articolo 18,3, che è un'aspettativa quella. Questa è, diciamo, la possibilità di instaurare un rapporto a tempo determinato. Questa storicamente era stata introdotta come possibilità solo per gli ATA nel 2003, nel 2007 è stata estesa anche ai docenti. Perché allora fu messa questa norma? Perché non esisteva la mobilità professionale verticale, cioè i concorsi, i passaggi degli ATA per concorso non c'erano nel 2003. E allora per dare la possibilità a uno che stava su 2 graduatorie, no? Assunto come collaboratore per chiamata diretta, ma gli interessava andare avanti come amministrativo o tecnico, gli fu data la possibilità per non perdere punteggio, cioè per continuare a fare le supplenze e maturare punti, in maniera che prima o poi potesse aspirare a passare il ruolo sull'area, perché non c'era la mobilità professionale. Poi è stata introdotta la mobilità professionale, ma questo istituto è rimasto. Noi non eravamo tra i difensori di questo istituto, tanto per raccontarcelo fra di noi, ma siccome altri sindacati invece lo volevano mantenere, allora a quel punto l'abbiamo esteso nel 2007 anche ai docenti, perché era partito come esigenza degli ATA. Perché i docenti no? Perché i docenti la mobilità professionale verticale ce l'hanno, perché il profilo è unico, gli ATA invece no, perché non ci vai per mobilità, la mobilità professionale è solo orizzontale per gli ATA. Sul dimensionamento degli ATA la stessa cosa, gli assistenti tecnici sapete che c'è sempre la precedenza all'interno dello stesso istituto a passare da un laboratorio all'altro, da un'area all'altra, ok? A meno che non ci sia esubero sull'altra, allora se c'è esubero non si può fare, non c'è questa precedenza, perché prima bisogna riassorbire sull'altra area eventuale esubero. Questa è l'unica particolarità rispetto agli altri. Tabella di valutazione abbiamo detto tutto, non ci sono grandi novità a parte questa. Abbiamo chiarito la famosa nota 12 che riguardava, per quanto riguarda soprattutto i titoli, mi pare, artistici e musicali, qualche chiarimento abbiamo fatto, per il resto è rimasto tutto uguale. Okay, io avrei finito, c'era prima lui. Americo, una precisazione. Dimmi. Articolo 23, comma 3 del contratto, i docenti di sostegno. Sì. Dove tocchiamo il verbo scoperto, per dice? I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sul posto di sostegno, qualora nella provincia di destinazione vi sia il supero di organico su posti di tipo comune, hanno l'obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio. Chiariscici che cosa significa, cioè riparte il contatore, io ottengo il trasferimento, sono di sostegno a 0,50, ottengo il trasferimento, sono a Milano, vengo a Potenza e ottengo il trasferimento su sostegno. La 0,50 supero quell'anno, riparte il contatore, sto altri 5 anni in condizione di assicurare. Ho capito, diciamola così, questo comma è molto pasticciato e è anche un nonsenso. Nel senso che non è previsto che azzeri e riparta, perché quello storicamente l'abbiamo previsto da sempre solo per i passaggi di ruolo, quindi scritta lì è sbagliata. Dire che devo rimanere sul sostegno se c'è esubero sulla mia classe in corso è una cosa pacifica alla palissiana, direbbe qualcuno. Diciamo che è una norma che è andata scritta così, ma non c'è alcun senso. Ok, mi tranquillo. Sapete che sull'obbligo del quinquennio c'è una querelle sulla valutazione? Noi abbiamo provato a chiedere la valutazione del pre-ruolo ai fini del quinquennio e abbiamo anche detto a condizione che sia continuativo, ma non è bastato per ottenerlo. Perché? Perché l'amministrazione dice: ragazzi, qui noi abbiamo i posti scoperti, detto proprio in soldoni, non ci potete chiedere di svuotarli ancora di più. Cioè uno che ci ha lavorato 4 anni da precario e passa di ruolo, poi detta fra di noi, ma non la diciamo in un'assemblea, tantomeno ai docenti di sostegno che sono permalosi si arrabbierebbero, ma è anche vero che sul sostegno io passo il ruolo non sempre per scelta, perché magari preferirei passare sul posto normale, ma mentre sul posto normale sto al 50° posto, hanno assunto fino al 10°, io stando al 50° posto magari sono il terzo dell'elenco di sostegno entro il ruolo. Quindi c'è chiaramente un obbligo che si impone, ma c'è anche, come dire, una convenienza dal punto di vista dell'opportunità di lavoro. Quindi bisogna un giusto equilibrio. Poi l'amministrazione dice: ma noi come facciamo ad raccontare all'associazione, ai genitori, eccetera, eccetera, che facilitiamo l'uscita del docente di sostegno? Terza considerazione, guardate che la botta arriva con la delega sul sostegno se passa, Perché lì lo portano a 10 anni, altro che 5 e altro cioè lì per come è la bozza c'è scritto che si considera anche il tempo determinato, perché hanno capito che si espongono ai giudici il discorso che facevamo prima nella pausa, no? Cioè non riconoscere pari dignità al lavoro ormai sta sotto mira di tutte le giurisprudenze, quindi lì ce lo mettono, però guarda caso portano 10 anni l'obbligo. Non mi pare come contropartita. Si applica anche a quelli che hanno ai docenti di sostegno nel quinquennio l'estensione a 10. Certo, se passa la delega così come la conosco io, per come è entrata, poi io non sono un esperto perché non ci ho lavorato sulle deleghe, ma per quello che ne so prevede questo, che è molto peggiorativa da questo punto di vista. Comunque, noi ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti perché l'amministrazione ci ha detto: guardate, potete chiederci tutto, ma questo noi non possiamo mai cedere su questo, perché sarebbe come, cioè andremo su tutti i giornali attaccati da chi ha bisogno di gente specializzata, perché noi firmiamo un contratto come amministrazione che favorisce l'uscita sul posto comune, insomma non lo possiamo accettare, quindi non è andata a buon fine quella richiesta, insomma. Però detto fra di noi, un po' di ragioni si possono capire, ecco, con l'aria che tira. Poi ci sono altre domande? Sì, ma scusa, dimmi. Alza il tono della voce. Titolare su ambito. Sì. Quest'anno si ha la possibilità di scegliere scuola e diventare titolare di scuola. Allora, ferma sul seguire, sono titolare su ambito, ma nel frattempo ho avuto un incarico triennale, giusto? Allora, sono su incarico su ambito perché hanno avuto un incarico. Poi posso anche aver avuto un'assegnazione provvisoria, ma c'ho sempre un incarico su una scuola anche se non ci sto lavorando. Ok, vai avanti. Si trovano bene nella scuola trovando un incarico triennale. Sì. Si su scuola, perché questo che ci domandano, quali sono gli svantaggi? So che è difficilissimo, direi quasi... E c'ho un'altra domanda, la faccio dopo. Ah, sì, una per volta, dai, così mi evito di appuntarmela. So che è difficile convincerli, ma per come stiamo costruendo il contratto, se va in porto, e per quello che dice la legge, noi siamo riusciti a ottenere questo risultato. Non c'è nei fatti nessuna differenza. Perché? Perché io rischio di andare via contro la mia volontà se c'è perdita di posto, no? Perché la legge stessa ti dice che dopo 3 anni sei confermato, a meno che non ci sia perdita di posto. Questo lo dice la 107. Poi, siccome nel contratto abbiamo detto che sono tutti uguali, cioè che non c'è la ruota di scorta ai titolari di scuola, per ruota di scorta intendo i titolari, gli incaricati, che fanno da scalino di riserva per, sono tutti uguali, te la giochi col punteggio, ma così come te la giocheresti col punteggio se diventassi titolare. E allora, se stai bene nella scuola dove stai, chi te lo fa fare andartene? Ma anche alle superiori. E tra l'altro perdi anche la continuità, dappertutto, non c'è differenza. Uguale, sì, dappertutto. Ma se in un liceo classico c'è il docente di economia, no? Sì. Come si stabilisce in un classico docente di economia? E perché non ci può stare fino alla pensione un posto di... Se questo fa un progetto interessantissimo, tutti sono entusiasti, felici di fare quell'attività, e la scuola lo conferma nel TOF negli anni successivi, non va via, eh? E che cambia? Scusa, allora, scusate, seguiamo il ragionamento per cortesia. Lei sta dicendo, in un liceo classico è stato dato un posto da 0,19, ok? Quel posto, vabbè, una che non sta negli ordinamenti, va bene? Quel posto alla scuola è stato dato come posto di potenziamento, giusto? Quindi sta in organico. Bene, su quel posto c'è finito un incaricato, ma ci poteva finire a trasferimento anche un soprannumerario vecchio o uno da un'altra provincia. La differenza fra i due qual è? Che quell'incaricato è incaricato, quell'altro è trasferito. Ma il posto è ballerino in entrambi i casi, eh? No, uno è soggetto a delibera del collegio dei docenti, l'altro può avere la precedenza. Ma perché delibera del collegio dei docenti? La delibera del collegio dei docenti al momento, scusa, ammesso che facciamo l'accordo, la delibera del collegio vincola il dirigente quando fa l'avviso. Ma stiamo parlando della fase di conferimento dell'incarico triennale. Una volta che mi è stato conferito, io posso essere mandato via da quella scuola solo se quel posto nell'organico della scuola, che è la somma del curricolare più il potenziamento, quel posto viene tolto. E può essere tolto, se quel posto non interessa a nessuno, può essere elevato dalla pianta organica, perché magari chiedono un posto di inglese o di matematica, a prescindere se c'è un titolare o un incaricato. Dipende dal ragionamento che fa la scuola sulla richiesta dell'organico. È così, però, dal punto di vista, se quel posto interessa alla scuola, la scuola se lo tiene e quindi lo chiede, continua ad averlo e sta nell'organico. Se non gli interessa, la scuola chiede di cambiare. Se il provveditorato accetta la richiesta, ripeto, indipendentemente se quel posto è stato occupato da un titolare o è stato occupato da uno con incarico, quel posto della 019, se non interessa, viene tolto a entrambi. Quindi entrambi rischiano pari pari allo stesso modo. Poi io lo so che in un liceo classico non è materia curricolare. Allora la domanda, dal punto di vista della consulenza, è: ma mi conviene chiedere una scuola dove la 019 è materia curricolare in modo tale che non sto sul potenziamento ma vado sul curricolare? Allora questa è la domanda seria. Beh, io se fossi io direi, vedi tu, ma io a posto tuo probabilmente preferirei non stare sul potenziamento, ma andare in una scuola dove magari quel posto è sia curricolare che potenziamento al limite. Non so se mi sono spiegato. Questo ragionamento, se fossi io a dover fare la domanda, lo farei. Però quello che mi interessa, intanto che siate d'accordo voi, non è obbligatorio essere d'accordo, ma vorrei convincere voi, perché poi so che è difficile che voi convinciate gli interessati, di spiegare che tra incaricato triennale e titolare di scuola, nella sostanza, non c'è differenza dal punto di vista delle tutele. Ma più ancora una delibera collegiale. Ho capito. No, vabbè, allora te. Ma però non cambia se sei titolare, capisci? In prospettiva. Ma anche in prospettiva. Sì, ragazzi, però noi stiamo parlando. Sì, ma noi stiamo disquisendo sulla differenza. Sì, noi stiamo disquisendo però sulla differenza tra l'essere titolare su quel posto e essere incaricato. Qui il problema è che quel posto è ballerino. Ma a futura memoria è il posto che è ballerino. Non è che lo diventa di più o di meno a seconda di come io lo occupo. Mi spiego? Si produce una soprannumerarietà su la classe di concorso che ha acquisito un posto di potenziamento, diciamo. Che è una ma non è automatico, dipende no. Se... Allora aspetta, la domanda è questa, cioè chi va in soprannumero? Mettiamo che noi abbiamo un potenziamento sulla 19, stiamo a un professionale dove c'è la 19. Lui, la persona che è arrivata con il contratto triennale... Allora, possiamo descriverlo così, non so se si vede. Io sto in una scuola dove ci sono... Lasciamo perdere il nome della classe di concorso. Due posti che sono curriculari perché ci sono ore effettive secondo gli ordinamenti. Più di quella classe di concorso è stato dato un posto di potenziamento. Morale della favola, in questa scuola ci sono tre posti. Ok? Allora, premesso questo, dimmi tu, dopo tre anni che dovrebbe succedere qui? Allora, si produce una soprannumerarietà. Cioè vuol dire che o questo perché calano le classi, o questo perché si cambia il prof, uno dei due va via, cioè da tre diventa due. Diventano due posti. Se qui ci sono tre persone, perde posto quella con meno punti, indipendentemente se questi posti sono occupati come titolare o sono occupati da un incaricato. Scusate, perché noi abbiamo scritto nel contratto che la graduatoria è unica tra incaricato e titolare, non è separata. Scusa, la seconda domanda. Stessa persona, titolare su ambito, incaricato su scuola, chiaramente ha scelto l'ambito, c'ha una 34 che è chiaramente sul comune. Adesso è l'ultimo che è arrivato l'anno scorso, quindi arriva ultimo in graduatoria. Con questa 104 sul comune, lui è escluso dalla graduatoria dei soprannumerari? Allora, mettiamo le cose in fila. Mettiamo le cose in fila, primo. E la scuola dove insegna non è nel comune, chiaramente, dove è l'assistito. Ok, allora mettiamo le cose in fila in ordine. L'anno scorso, a settembre o agosto, questa persona è stata mandata in una scuola del comune, se c'era posto, oppure nella scuola viciniore, prima della chiamata diretta, per capirci. Perché chi aveva diritto alla precedenza 104, l'amministrazione doveva dargli una scuola senza passare attraverso la procedura della chiamata diretta. Questi qua erano dell'interprovinciale. Ho capito. Suffrivano della 104 per assistere al genitore. Ho capito, ma una volta che diventa titolare nella seconda operazione c'era diritto, secondo me, eh. Non ne ha beneficiato nel trasferimento. Non ne ha beneficiato. Beh, questa era da discutere. Comunque, lasciamo perdere quello che è successo l'anno scorso, non ci interessa. Adesso che succede? Chi fruisce delle precedenze, quindi se siamo in provincia c'è anche l'assistenza al genitore con tutte le condizioni per beneficiarne, dice il contratto che è escluso dall'individuazione del perdente posto. Quindi anche se ci è arrivato il primo settembre, è escluso. Come quello trasferito dal primo settembre è escluso, a meno che non ci siano tutti con la 104, allora uno di loro, ahimè, se ne deve andare. Seconda questione che tu hai posto, lui è assegnato, è incaricato in una scuola ma sta in un comune diverso rispetto a quello che aveva assistito. Bene, lui è escluso da quella scuola a condizione che faccia domanda volontaria di trasferimento per andare in una scuola del comune dove risiede il familiare, il genitore in questo caso. Però lui è titolare su ambito. Se è titolare non è titolare su ambito, lui è titolare su ambito, ok, ma la mobilità si gioca sul, in questo caso non si fa la graduatoria interna di ambito, si fa la graduatoria interna di scuola. ok? L'incaricato sta assieme al titolare? Abbiamo detto di sì. Quindi la graduatoria si fa nella scuola dove lui sta lavorando, va bene? Domanda, questa scuola sta in un comune diverso dall'assistito? Se è in un comune diverso vale la regola così come varrebbe per il titolare, non c'è differenza, che per essere escluso lui deve dimostrare la volontà di voler andare di là. Quindi siccome lui la può fare la domanda per andare di là, la deve fare. Aspetta, fai finire. Quindi ce l'ha adesso. Però lui è arrivato su ambito. Ho capito, ma non va, lascia perdere l'ambito, non ti fermare sull'ambito. Scegliere, per esempio, perfetto. Bene. Va bene. Perché voglio dire, poi è stato scelto da... Lascia perdere quello che è successo a settembre. Segui. Riassumiamo, lui è titolare di ambito per motivi vari, è diventato titolare di un ambito, va bene? Senza fruire di nessuna precedenza, ha avuto la scuola come incarico triennale, perché tutti quelli titolari su ambito, anche nei assunti, hanno avuto un incarico triennale, ok? Quindi attualmente sta lavorando con incarico triennale in una scuola. Nel frattempo acquisisce la 104, vale per tutti quelli che la acquisiscono entro i termini di scadenza della mobilità volontaria, perché fino a quella data si prendono in considerazione tutti i titoli, i requisiti, eccetera. Attualmente ce l'ha questa precedenza. Bene. Si fa la graduatoria interna della scuola dove sta in servizio? Lui deve essere graduato e dovrebbe essere nell'ultimo gradone, perché? Perché è arrivato quest'anno. C'ha la 104, dovrebbe essere escluso dalla graduatoria e quindi non diventare perdente posto. Ma siccome mi stai dicendo tu però che il familiare non sta nello stesso comune dove lavora, nella scuola dove lui lavora, per poter non perdere posto deve anche lui presentare la domanda per andare di là. Se non la presenta non viene escluso e viene trattato col suo punteggio secondo quello che gli tocca. Io faccio un caso, scusa Paolo, perché questa si riallaccia proprio a questa qua. Allora, quando però il comune ha più ambiti, funziona come sui distretti dell'anno della precedente mobilità, non devo fare niente, sono escluso perché ci sto già nel comune. Cioè, no, dico, quando gli ambiti sono più piccoli dei comuni, vale l'ambito o vale il comune? Ah, è comune, comune. Okay, cioè la precedenza ce l'ho per il comune, per perfetto. Il comune di assistenza. Perfetto. È una semplicemente bisogno della tua approvazione. In una scuola c'è una classe di concorso, sono tre docenti, ma sì. Due sono titolari di 104 e quindi devono essere esclusi dalla graduatoria interna. Il vecchio titolare, sebbene con un lungo percorso lavorativo, esce e diventa soprannumerato. La legge, gli altri due la legge di tutela. Se fossero due con la 104, due posti diventa uno, e allora tra i due dipende dal tipo di precedenza, certo, che hanno, perché poi lì c'è l'articolo 13 del numero, no? In poche parole, quelli che hanno certe precedenze possono essere toccati solo se la gara è fra di loro. Io chiuderei qua, non faccio, chi è che qualche segretario che chiude per gli onori di casa, perché io fra 5-10 minuti, eccolo Enrico, quello lo vedevo. Diciamo sono quasi le 4. Il segretario. Non l'avevo visto. Stavo guardando Ottavio e. Certo, c'è. Fiorella, fai gli onori di casa visto che sei di Napoli. Sì, ma... ribadisco che. Non attendiamo. Massimo, entro domani spedisco a tutti i segretari provinciali delle province della Campania, Basilicata e Calabria. Le slide. Grazie. Io farei un po' di interrogazioni, in verità. Vediamo se avete capito bene. Altrimenti per esempio, c'è un corso di recupero a Roma il 15. Vediamo chi sa rispondere. Legge 100. Codice di militare. Quali sono le condizioni per fruire di che questa il militare sia comandato, non sia trasferito, il fogliettino della, esatto, della poi cosa, del poi capitano, del comandante, succede, si fa la domanda e viene immediatamente al proprio titolare inviato a E se invece il militare è andato in pensione? Come no? Comandato, come fa a essere comandato? Se è andato in pensione. Dai, la sufficienza tagliola, ma 7-9, eh? Solo la sufficienza, la 7-9. Sufficienza perché non avete letto quello che continua, quella noticina. Non l'abbiamo letta. Questo per dire. No, ma non c'è niente il contratto della legge. Le noticine vanno lette e non vi dovete fidare della vostra memoria. Mai. Purtroppo la legge della legge, anche se ci sta sul corso, ci l'ordinanza e il contratto di mobilità sempre a portata di mano. Per esempio, c'è una noticina che dice che in questo caso il militare che è andato in pensione e ha eletto domicilio nella città di conserva da alla moglie gli stessi diritti anche in caso di pensionamento. Questi militari prendono indennità di trasferta, vanno in pensione prima, hanno pure i coniugi sotto casa, lo so che hanno una serie di privilegi, però cari colleghi, ciao, ciao a tutti, ciao. Norberto Gallo. Sì, ma già sai. Se non esce il materiale.